Non lo so perché vado via. Da qui cosa c'è? Sei casa mia. Non lo so che sguardo avrò al prossimo giro del via. E lasciarsi tutto indietro come curiandoli tra i miei sogni che esplodono, esplodono, si spengono.